un passaggio, Portanto Bianca, Santiago 5, ha fatto due fischi e è salito a 9.40. Sicuramente dopo ha passato ed era fisso 9.30, 9.35. Claudio, questa è quella che c'hai tu, dai, che stai facendo a Massimiliano? parlando, Claudio, se non ci sentiamo ti saluto, buonasera, buon proseguimento, ci sentiamo domani casomai, se con te non ci sentiamo, ok? Buongiorno, c'è mai quando finisce la partita rientro, ciao a tutti, correttando. Ciao, ciao, se ce l'ha fatto, ho fatto un passaggio dall'auto. Vabbè, io a tutti i drumi di Gigi, io, ma quando mai? Bocca, svegliati. Siamo oltre la fascia protetta.